Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Pronti per cominciare una nuova settimana di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. Giulio@radiorockfm.com, questo è l'indirizzo con cui intavolare delle discussioni uno a uno, a cui rispondo appunto puntualmente, e anche per iscriversi alla lista nera di Eclettica. Poi vi ricordo www.myspace.com/eclettica. C'è un po' di dibattito in questo periodo, mi piace il dibattito, lo preferisco al silenzio di settimana scorsa. Giulio Caperdoni, che come al solito ha quattro parti a disposizione ogni settimana, oltre alle pillole giornaliere, quattro parti di Eclettica da distribuire dal martedì al venerdì, poi ricompattate a 2 a 2, presenti anche il sabato e la domenica. Questo per quanto riguarda le frequenze terrestri. È chiaro che poi il podcasting vi permette tutta un'altra libertà, ma come sappiamo e come più volte ci siamo detti, anche con una certa perdita di fascino. Stanotte ho saputo che c'eri, una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo al buio con gli occhi spalancati ed un tratto, in quel buio, si è acceso un lampo di certezza. Sì, c'eri, esistevi. Ed è stato come sentirsi colpire in petto da una fucilata. Mi si è fermato il cuore e quando ha ripreso a battere con tonfi sordi, cannonate di sbalordimento, mi sono accorta di precipitare in un pozzo dove tutto era incerto e terrorizzante. Ora eccomi qui, chiusa a chiave dentro una paura che mi bagna il volto, i capelli, i pensieri, e in essa mi perdo. Cerco di capire, non è paura degli altri, io non mi curo degli altri, non è paura di Dio, io non credo in Dio. Non è paura del dolore, io non temo il dolore, è paura di te, del caso che ti ha strappato dal nulla per agganciarti al mio ventre. Non sono mai stata pronta ad accoglierti, anche se ti ho molto aspettato. Mi sono sempre posta l'atroce domanda: e se nascere non ti piacesse? Questo era l'incipit di Lettera a un bambino mai nato, di Oriana Fallaci. Thank you. Io lo so, so che a voi che ascoltate Eclettica non spaventano i brani lunghi, vi piacciono le emozioni. Penso che di emozioni il crescendo di questo brano, semplicemente intitolato Quinta Parte, da parte dei giapponesi Mono, di emozioni ne abbia regalate parecchie. Part 5 da Palmer's Prayer, Mass Murder Refrain, il disco che vede assieme i Mono a Words and Girlfriend. Questo lo pseudonimo che si è scelto un moderno compositore elettronico giapponese. E questo è il brano che ci siamo ascoltati in apertura di Eclettica, che ha costituito la prima metà della prima parte di Eclettica della settimana. Spero ne sia valsa veramente la pena. Un disco uscito già da un anno in Giappone e che ora ha avuto distribuzione anche nel mondo occidentale. Mono and Words and Girlfriend, questo è il nome degli artisti che si sono messi assieme per questa prova. E vi ricordo, Part 5 è invece il titolo del brano. Ora Italia, Sassari, Primo Chef del Cosmo. Mia luce, io sono un illuso spettatore che accenna a rincorrerti e sento che c'è, brucia veloce, come se quel raggio che traspare dalla tua magia vocale riscaldasse le mie idee. Dolce netta musa inattaccabile, non ti scomponi e badi alla sistematicità. Mentre già combatto ogni respiro, dormi morbida, ti adoro, me ne sto seduto qua contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura, pura. Quanti mari devo attraversare per potermi ritrovare nella mia stabilità? Ora che ho confuso ogni sentiero, trasportandomi nel vero della passionalità, a contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura, pura. Quanti mari devo attraversare? Quanti mari devo attraversare? A contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri. Perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. Sei estasi pura, pura. Sei estasi pura, sei estasi pura. Sei estasi pura, sei estasi pura. Tutto è talmente incerto, discutibile. L'unica cosa sicura è che io mi ci sarei tuffato. Anch'io. E te, Melandri? Sinceramente, Mascetti, valutando che non sono occasioni che si presentano con troppa frequenza, e l'orgoglio di imporre contemporaneamente a due donne la virilità del maschio, io mi ci sarei fiondato. Ecco. Thank you. Mike P. Hinson and the Opera Circuit, e questo è il titolo dell'album dal quale ci siamo ascoltati Jack Hyde. Nelle playlist di Eclettica dalla settimana scorsa, non con uno, ben con due brani, ci siamo già anche ascoltati Seems Almost Impossible, una traccia molto più funerea rispetto a questa. Jack Hyde sembra allegra al confronto. Mike P. Hinson, che esce per Sketchbook e che settimana scorsa era stata proprio con questo brano anche pillola di Eclettica. A proposito di Eclettica, a proposito dei regali che di tanto in tanto vi faccio, già vi ho detto settimana scorsa, ve lo ricordo anche questa, che venerdì 13 potreste andare a vedere gratuitamente Bugo, lo Zero Music Club di Azzano San Paolo, come venerdì 20, stesso luogo, Marta sui tubi. Scrivere a Giulio e radiorockfm.com se siete interessati a questi concerti. Invece ritorniamo in Inghilterra quest'oggi, ritorniamo dai Clinique. Da queste parti, dalle parti di Liverpool, ci eravamo passati proprio in inizio di stagione, la prima settimana di Eclettica, Visitations, quello che è il loro nuovo album per la Domino Recording. Noi ci ascoltiamo la traccia numero 4, Harvest Within You. Button down, button up. siamo così arrivati anche alla chiusura, manca ancora un brano però della prima parte di Eclettica, anche di questa quarta settimana in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM. E ci arriviamo con un disco che per me è una conferma, nonostante non fosse il suo esordio. Io scoprì l'artista che ci stiamo per ascoltare solo nel 2005, conosciuta di Ashes for Dust, e vi coinvolsi in questa mia scoperta facendovelo ascoltare spesso. Ora è arrivato Song of the Blackbird per la Southern Records, e lui, William Elliott Whitmore, si conferma come un grande artista, 28 anni ma una voce da Johnny Cash negli ultimi giorni di vita. Eclettica. Fine della prima parte.